Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera e benvenuti alle buonanotte di allineamenti. Qui è Gas che vi parla. E è da un po' che non ci sentiamo perché sono stato via. Mi spiace. E anche Andrea Paolo Ferrarese è in giro per il mondo. E anche Mendo è in giro per il mondo. Quindi diciamo che allineamenti sta scomparendo perché sta viaggiando. E poi ricompare perché si ritorna sempre, sempre a casa. E allora, eccomi qua. Sono tornato e sono tornato dal Giappone. Sono tornato anche da delle settimane impegnativissime dal punto di vista personale, perché ho dovuto lavorare come un pazzo. Ho dovuto impegnarmi a cercare una casa. E mi sono messo ancora più di impegno nella mia startup Yesers. Non so se la conoscete. Con cui facciamo, cerchiamo almeno di avvicinare di nuovo i giovani alla politica e a noi come gruppo, alla grande politica. E sono stato in Giappone ed è proprio di quello di cui vi vorrei parlare in questi giorni, in questa settimana. Vorrei partire da Tokyo, dove sono stato per 4 giorni e ho visto delle anime completamente diverse. Siamo passati da Shinjuku, stazione gigantesca dove quando ero al piano meno 4 non riuscivo neanche a capire dove uscire, a posti molto più tranquilli come la Dasazuka, dove ti becchi qualche vecchio monastero ed è una figata ritornare nei vecchi tempi. Mi sono comprato anche una maglietta con naturalmente l'immagine dello tsunami e c'era anche di Kongozilla, ma ho evitato. Vabbè. Quindi in questa settimana dedicata al Giappone volevo partire con una canzone che non è giapponese, ma è di Devil Dragon Tattoo ed è First Circle, e però è una canzone che tocca molto da vicino l'animo e lo spirito giapponese, un po' rivisitato per i nostri palati, il nostro orecchio europeo. Vediamo se vi piace, fatemelo sapere. Good song. Steve! Good song. Thank you. Tornati qui in, in postazione e ritorniamo a parlare di quello che era l'argomento da cui volevo partire con questa atmosfera che, come avete sentito dalla canzone, era un po' buddista, tecnologica, beh, meglio se non dico più cavolate, e vi racconto quello che volevo dirvi, che il Giappone è proprio un altro mondo, è qualcosa che è dall'altra parte, ci si mette 12 ore da Milano per arrivarci e quando arrivi capisci subito di essere in un mondo completamente diverso, perché la persona che ti accoglie è lì che ti dice grazie di essere venuto in Giappone, arigato, arigato, arigato, arigato a tutti quelli che passano. E c'è un'accoglienza, una calma, un silenzio, nonostante tu arrivi e sai che sei in una città che è in una nazione che è grande geograficamente come l'Italia, ma al doppio delle persone. E ogni volta che pensi all'Asia, pensi proprio a un sacco di formiche che si muovono dappertutto, che vanno tantissimi, che coprono ogni spazio. E invece sono ordinati, calmi, silenziosi, molto più di noi che facciamo molto più casino, ci muoviamo per nulla e siamo anche più lenti, pensando di andare più veloci. Proprio un altro modo di vivere la vita e vivere la società e la socialità. Ce ne sono tante di cose strane che vi racconterò in questa settimana, come quella che non hanno pattumiere. All'inizio eravamo scioccati perché la città è pulitissima, nonostante il fatto che non ci siano pattumiere. In Italia c'è una pattumiera ogni 20 metri, eppure tutto sporco, quindi pensavamo che fosse stato un gesto politico per educare le persone a portare la pattumiera a casa e buttarla in maniera corretta. E invece poi abbiamo scoperto che c'è stato un attentato dove hanno lasciato una bomba dentro una pattumiera. Allora da quel giorno le pattumiere sono diventate pericolose, hanno deciso di toglierle tutte. I giapponesi sono un po' radicali. E in questi minuti che ci mancano per concludere la puntata, volevo parlarvi di alcune parole che esistono solo in giapponese e noi non riusciamo a tradurle, che toccano delle, un po' come la parola mozzafiato in italiano, che non si può tradurre perché traducibile nelle altre lingue, ma per noi è una cosa molto evocativa, no? Riusciamo benissimo a tutti a darle un significato. Anche in giapponese ci sono tantissime parole che non riusciamo a tradurre e che il loro significato racconta come vivono la vita e come, che sensibilità hanno su questa. Come la prima parola che volevo raccontarvi è komorebi, che è l'effetto particolare della luce solare quando passa leggera e sottile attraverso le foglie degli alberi. Poi c'è Shibumi, che è la bellezza poco appariscente, è una grande raffinatezza che si nasconde dietro un aspetto ordinario e comune. Poi c'è Bakushan, una ragazza bellissima da dietro ma non da davanti, bellissima fino a quando non la si guarda in faccia. E qua noi in italiano ne abbiamo qualcuna di carina, ma non abbiamo una parola unica. Awar, la sensazione dolce e amara che si ha quando si sta vivendo un momento di grande bellezza, ma che è effimero e destinato ad esaurirsi velocemente. Age Hauteur, l'apparire meno belli dopo essersi tagliati i capelli. Wabi Sabi, accettare seneramente il naturale ciclo di vita e di morte nella consapevolezza della transità delle cose. Anami, la millenaria usanza giapponese di godere della bellezza della fioritura degli alberi, e in particolare quella dei ciliegi. E poi l'ultima, e vi giuro che questa è vera perché li ho visti, è Sundoku, l'abitudine di comprare i libri in maniera compulsiva. Per oggi è tutto, io vi auguro che una buona domenica, speriamo che questa settimana spacchi alla grande e che ci porti a viaggiare in ogni singolo giorno, perché bisogna scoprire tante cose, come quei 5 giorni che ho fatto io a Tokyo mi sono sembrati mesi che sono mancato, perché ho fatto tante cose che mi hanno arricchito tanto, mi sono fatti vivere di più di quando ogni tanto prendo il treno indietro senza senso. Vi auguro una buona notte dalle buone notti di allineamenti, ringrazio Ciao Radio Come, saluto tutti, in particolare quelli che sono via, Andre, Mendo, buonanotte a tutti, queste saranno le buone notti di allineamenti. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.